Siamo insegnanti di scuola primaria o scuola dell'infanzia, che ormai è il terzo anno che subiamo questa problematica, per cui poco prima dell'inizio delle scuole ci siamo passati parola sul fatto che non era più giusto tollerare in silenzio questa situazione, e quindi abbiamo buttato giù questo comunicato che adesso sta girando nelle scuole, quindi sta acquisendo altre adesioni. La questione è il fatto che 2 anni fa, questo è il terzo anno, è stata nella finanziaria è stata inclusa una norma che dice che il primo giorno di supplenza, che sia una supplenza di un giorno oppure di tutto un anno, è proibito supplire, è proibito chiamare supplenti, e questo ha creato moltissime problematiche nelle scuole, perché la copertura di questa prima giornata di supplenza, che nei progetti ministeriali doveva essere fatta da dagli insegnanti di potenziamento, quelli che sono stati definiti di potenziamento, di fatto viene fatta spostando questi insegnanti dai progetti che stanno facendo, dagli aiuti che stanno dando nelle classi, oppure addirittura se gli assenti sono più di uno, andando a dividere i bambini della classe che non ha supplente nelle altre classi, quindi intrecciando la didattica un po' in tutte le classi, oppure addirittura, non so, cercando insegnanti di sostegno e quindi togliendoli dal bambino seguito per andare a seguire la classe senza supplente. Questa situazione, diciamo così, mina la didattica delle altre classi, e a volte ci sono anche problemi di sicurezza. Certo. Una delle problematiche più importanti quando si suddividono i bambini tra le varie classi è quella della sicurezza, perché la capienza delle classi è registrata su un certo numero di bambini. Quando mettiamo che manchino 2 insegnanti che non vengono chiamati supplenti e non ci sono a disposizione insegnanti di potenziamento liberi, significa 4-5 bambini in più in ogni classe, il che significa superare i parametri della sicurezza. Tu dicevi che questa norma era contenuta nella finanziaria, quindi, come dire, è essenzialmente una norma di tipo economico? Sì, la finalità, diciamo che l'hanno introdotta nel 2014 perché stavano introducendo anche la riforma, la legge 107. Con la legge 107 hanno fatto delle assunzioni di insegnanti, per cui in effetti nelle scuole ci sono alcuni insegnanti in più, quelli che vengono chiamati di potenziamento, che però l'idea ministeriale era molto, era semplicistica, era assumiamo qualche insegnante in più e così coprirà le supplenze, ma le supplenze non accadono in maniera regolare sulla base degli insegnanti assunti, per cui ci possono essere settimane in cui non ci sono assenti e settimane in cui ci sono 2 o 3 assenti, quelle dell'influenza, no? Ovviamente gli insegnanti del potenziamento non è che stanno senza fare nulla negli altri momenti, per cui si occupano di progetti di arricchimento, progetti di intervento di recupero dei bambini, cioè organizzano la loro attività didattica nella maniera di migliore come qualità, salvo che quando c'è un supplente, per questa norma che cerca di risparmiare qualche soldo, ma veramente pochi, vengono tolti dai loro progetti e smistati per fare i supplenti temporanei, invece di chiamare un supplente per un giorno. La cosa è problematica anche perché l'età degli insegnanti sta anche crescendo e quindi molti insegnanti cominciano ad avere la legge 104 perché non so, hanno i genitori anziani, devono seguirli, ed ha diritto a 3 giorni di assenza mensili. Mettiamo che un insegnante ne prenda anche soltanto 2 di questi giorni, però li prende per andare a portare i genitori a fare delle visite mediche, però li prende separati. Sono tutte e 2 assenze di un giorno che non vengono supplite per legge, il che è assurdo. Allora, nell'appello si dice vogliamo cancellare questa norma, che è assurda perché fa risparmiare pochissimo, ma distrugge la qualità. E dall'altra parte vorremmo anche che nella norma c'è scritto fatta salva la garanzia dell'offerta formativa, cioè dal ministero sanno che il diritto allo studio deve essere assicurato. Ma allora noi vorremmo con questo appello spingere anche i nostri colleghi e soprattutto i dirigenti a approfittare di questa nota e a dire se io ho verificato che non ci sono insegnanti che non fanno nulla, che possono fare i supplenti in quel momento, io chiamo il supplente perché la norma mi dà diritto di chiamarlo, perché non devo essere più zelante del re e per far risparmiare una giornata di lavoro al ministero fare però saltare tutta la didattica della mia scuola. Ecco, noi vorremmo ottenere questo.